Oh, ed eccoci arrivati al dunque. Qui dovremmo identificare ogni tipo di intervallo possibile sopra a una base musicale totalmente atonale, free, suonata praticamente a caso, quasi. E è un compito piuttosto difficile, ma non impossibile se avete studiato bene gli episodi precedenti. Scusa, ma Ma un attimo, cioè. fammi capire. Quindi noi dovremmo identificare qualsiasi tipo di intervallo, Esatto, ascendente o discendente, giusto, e poi sopra una base completamente free, chiaro, e abbiamo una misura di tempo per dire qual è l'intervallo. bravo, E poi metto una scopa. non dire parolacce, non cominciamo. Ecco, gli esercizi si svolgono con il solito sistema, dapprima una base musicale solo di percussione, batteria, e poi con vari accompagnamenti, disastri vari che cercheranno di confondervi in ogni maniera possibile. Qualcosa di simile a questo. Sesta maggiore. È andato a caso. Settima. Settima Ecco, maggiore. stavo per dirlo, eh. Ecco, questa serie di esercizi naturalmente è particolarmente difficile. E vi consiglio di studiare bene tutti gli episodi precedenti prima di affrontarla, anche perché sotto c'è una base musicale completamente, atonale. Dai, sotto, pronti partenza via, dai, si parte! Terza minore. Quarta giusta. Sesta maggiore. Settima maggiore. Seconda minore. Quarta giusta. Quinta giusta. Terza maggiore. Bene, ora un basso fisso e un pianoforte che suona grappoli di note praticamente a caso a ispirazione e intervalli che vanno e vengono. Sotto si parte. Seconda minore. Quarta giusta. Quinta giusta. Terza maggiore. Terza minore. Quarta giusta. Sesta maggiore. Settima maggiore. Nella terza serie una linea di basso a nota fissa, ma che cambia ogni volta. Pronti partenza? Via. Quarta eccedente. Quinta giusta. seconda maggiore. Settima minore. Quinta eccedente. Terza maggiore. Seconda minore. Quarta giusta. La quarta serie è sul groove di batteria e sotto avrete un pianoforte altamente disturbante. Via! Seconda maggiore. Terza minore. Sesta minore. Sesta maggiore. Quarta eccedente. Settima maggiore. Quarta giusta. Settima minore. Difficilino, eh? Lo so. Del resto, una preparazione seria implica saper riconoscere gli intervalli più o meno in qualsiasi contesto, in qualsiasi condizione ambientale. Ecco, vi ricordo che la serie completa degli episodi la trovate sulla mia pagina Patreon all'indirizzo www.patreon.com/giorossi. Ecco, sempre sulla mia pagina Patreon troverete ogni 2 settimane aggiornamenti sul materiale didattico, contenuti vari e anche materiale extra. E con questo è tutto, buon esercizio, buon lavoro e sotto, sotto, sotto e ancora più sotto. Ciao!